Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Quella casa l'aveva costruita mio nonno, con le sue mani. E dalla sua vigna, con orgoglio, ne ricavava il vino, il suo vino. Io adesso, se dovessi spiegarvi come fosse quel vino, non saprei cosa dire. Forse oggi non riuscirei neanche a berlo. I gusti cambiano e una volta provato il meglio è difficile tornare indietro. Però malgrado tutto, quello era il suo vino che maturava nelle sue botti, dentro a una cantinetta a cui si accedeva salendo due gradini che io trovavo enormi. Mi chiamo Davide Severini, ho 47 anni, vivo a Foligno, sono nato sempre qui a Foligno. Sono sposato e ho due bambine piccoline di 3 e 1 anno. Di lavoro faccio il geologo, libero professionista. Nonna, il vetro della finestra del bagno in montagna l'ho rotto io a 12 anni, lanciando una boccetta di shampoo. Claudio. Mamma, la tua boccetta di deodorante è sparita dalla mensola, l'ho usata io per incendiare i formicai. Sergio. Cristiano, quando a 16 anni giocavamo al gioco della bottiglia, anche se dicevo di no, io, Laura, la baciavo con la lingua. Giorgio. Paola, prima che tu mi lasciassi 4 anni fa, ho sbirciato sul tuo computer e avevo già scoperto che eri una stronza. Silvano. Papà, io a calcio non ci volevo giocare. Claudio. E ancora, Deborah. Sono stata io a inceppare la stampante. Francesco, ho messo io il Guttalax nelle birre di due odiosissimi fratelli un'estate in vacanza e sì, avevo anche baciato mia cugina. Emanuele, ho rotto io quella mensola durante le orgie adolescenziali di Pereppepe. Aspetta. Ho rotto io quella mensola durante le orgie adolescenziali di Pereppepe del Capodanno 1992 a casa di un amico. Lo lasciai affranto dall'ansia di doverlo dire alla madre e me ne tornai a casa anche io pieno d'ansia. Nicola, sono stato io a suonare per anni e anni il campanello di Michele Antonaccio, barista sui generis a Sant'Agata di Puglia. 349-238-6666 oppure tenetevi forte perché oggi si dà un numero di telefono come non si fa da anni, credo. Da anni no, forse da mesi, però da qualche settimana sicuramente. Per chiamare in diretta il numero è 800240024. L'SMS invece è 349-238-6666. Oggi si parla di piccoli segreti che non avete mai confessato. E oggi, un venerdì qualunque, di inizio dicembre del 2011, è arrivato il momento di farlo. Fermatevi 5 minuti, ma no, 5 minuti è esagerato, so che 5 minuti della vostra vita sono troppi. Fermatevi 5 secondi, prendete in mano il cellulare e fate questo numero, 800240024, e confessatelo. Sì, siete stati voi a fare quella cosa, anche piccola, quando avevate 12 anni, quando avevate 18. Fate come... quello più struggente è Claudio, che dice, papà, io a calcio non ci volevo giocare, perché c'è un mondo qui dentro, tu pensa questo. Francisca, una volta la sorella di mia nonna ha avuto un brutto spavento durante la notte, abbiamo sentito pure un urlo, sono stata io a mettere l'idrolitina nel suo vaso da notte. Vabbè, aspetta un altro, stai lì Paolino. Ugo, sì, questi sono presi da Facebook, il profilo è sempre quello, Matteo Caccia, io sono qui. Ugo, a 7-8 anni, in Colonia, in Toscana, in un bar dove mi recavo per telefonare ai genitori, ho rubato un duplo. Allora, secondo me è arrivato veramente il giorno, siamo prima delle vacanze, allora vediamola da questo punto di vista. Mancano 20 giorni alle vacanze di Natale, dovete liberarvi la coscienza, ma non avete voglia di andare da un prete, giusto? Anche perché magari non siete cattolici, non ci credete. E allora fate questo numero, 800240024, e vi liberate la coscienza da quel piccolo, ma fastidiosissimo segreto che non avete mai detto. E questa è una cosa, giusto, Bolini? Però c'è un'altra cosa che devo dire, giusto? Me l'avevi detto prima. Cos'è che devo dire? Lo Yed. Allora, attenzione, aspetta, non ce l'hai una base cross mediale, Paolino? No, non ce l'abbiamo. Va bene, fa niente. Fai però una roba, fammi ripartire questa quando vuoi. C'è grande cross medialità a Radio 24, siamo veramente su di cross medialità. Sapessi anche cosa significa, sarebbe probabilmente più facile. Il gioco è molto semplice. Abbiamo chiesto, insieme a Tiziano Bonini, agli studenti dell'Istituto Europeo di Design di Milano, per gli amici IED, gli studenti, per l'esattezza, del secondo e terzo anno del corso di illustrazione, abbiamo chiesto semplicemente di raccontare a modo loro i racconti che voi ci mandate. E cioè, voi ci mandate i racconti che noi giriamo e facciamo diventare delle puntate di questo programma, per cui ogni giorno io racconto una storia di ognuno di voi. Sul sito poi trovate la foto della persona che ha mandato la storia e un pezzo della storia. Ecco, da lunedì in più ci sarà anche un disegno. Quel disegno è concepito e fatto banalmente, essendo cross mediale, da uno studente dell'Istituto Europeo di Design che sta studiando per diventare un illustratore. Sono già arrivati diversi, ce li hanno già mandati, giusto Tiziano? Sto dicendo no, ce li hanno già mandati, ce li hanno già mandati, anche perché io e Tiziano siamo andati allo IED qualche mese fa, hanno cercato di tirarci delle uova, non ce l'hanno fatta, ma semplicemente perché le abbiamo schivate, però nessuno ne ha parlato. Insomma, in quel caso abbiamo raccontato di che cosa si trattava questo programma, nessuno sapeva cosa fosse, credo che adesso lo ascoltino però il programma, anche se non l'ascoltano, gli abbiamo dato le puntate, gli abbiamo dato i racconti, e da lunedì ogni puntata sul sito di Radio 24, radio24.it, la pagina di Voi Siete Qui, trovate, correggimi se sbaglio Tiziano, un pezzo del racconto, trovate la solita foto, ma anche l'illustrazione, che noi chiaramente poi racconteremo in onda, e troviamo il modo per fare le marchette per lo IET, giusto? 349-238-6666 800-24-0024 se avete voglia di confessare un vostro piccolo segreto. David lo ha fatto esattamente così. Ci sono cose che non appena le tocchi si rompono, perdono la loro lucentezza, appassiscono e muoiono. Ecco, allora bisogna cogliere l'attimo, essere veloci e fortunati, essere nel posto giusto al momento giusto. E bisogna anche avere il pelo sullo stomaco per porre fine coscientemente a qualcosa di così bello ma così effimero. Ci sono invece altre cose che hanno bisogno di tempo, di cura, di attenzione, di pazienza. Perché all'inizio sono ancora acerbe, sono chiuse, non sfruttano appieno le loro potenzialità. Però se tu gli dai del tempo, se sai attendere, si aprono, esplodono e ci riempiono con tutte le loro qualità nascoste. Un po' come certi vini, che una volta aperti migliorano di minuto in minuto. Parlare di vino mi fa venire in mente la prima volta che ne ho bevuto. Avrò avuto 4-5 anni, ero nella casa di mio nonno. In quel periodo ci ho abitato per alcuni mesi. Per un periodo, cioè mio padre che era malato in ospedale, e ho abitato per alcuni mesi. Era una vecchia casa a due piani, con un piccolo giardino, un fico e una vigna. Un'oasi di campagna oramai inglobata dalla città avanzante. In quella casa ho imparato a leggere, a scrivere, a cantare. E sempre in quella casa, anni dopo, ho fatto per la prima volta l'amore. Quella casa l'aveva costruita mio nonno con le sue mani, e dalla sua vigna, con orgoglio, ne ricavava del vino. Il suo vino. Ecco, io adesso dovessi spiegarvi come fosse quel vino, non saprei cosa dire. Forse oggi non riuscirei neanche a berlo. I gusti cambiano e una volta provato il meglio è difficile tornare indietro. Però malgrado tutto, quello era il suo vino. Maturava nelle sue botti. E lo faceva dentro ad una cantinetta a cui si accedeva salendo due gradini, che io trovavo enormi. È un ricordo che ho abbastanza nitido, perché a quell'età uno, diciamo, si dimentica, cioè si ricorda molto, molto poco, e quindi questo qui è un ricordo che mi è rimasto abbastanza impresso. Così quel giorno, come ogni giorno, mio nonno andò nella sua cantina per bersi un bicchiere del suo vino nuovo spillato dalla botte. Io curioso lo seguì e lui, con fare complice, mi disse: «Vieni su». Mi fece entrare in quello che era il suo regno, prese un bicchiere, mi versò un dito di vino e me lo diede dicendo: «Bevi anche tu, insieme a nonno». Ora non ricordo che sensazione ebbi, ma non cattiva, e con gioia ed emulazione me lo scolai. Poi mi guardò negli occhi e mi disse serio: «Mi raccomando, non dire niente a nessuno, questo è un segreto tra te e nonno». E io l'ho fatto, non l'ho detto fino a nessuno, fino ad oggi. Ecco, ora voi sapete il mio segreto, anche se è un segreto senza più valore. Però vi devo dire che da allora ho sempre bevuto e mai mi sono ubriacato fino a stare male. Mai mi sono pentito di aver bevuto, perché il mio vero segreto è bere bene, bere il giusto e fermarsi quando sai che stai per sbagliare. I piccoli segreti valgono un po' di più di quelli grandi. E chiaro che non sto parlando di formule chimiche rivoluzionarie o di storie di spionaggio, parlo di quelle cose che si fanno, ma poi si sceglie di non dire a nessuno, per qualche motivo. Una moglie, ad esempio, che non dice al marito che un collega in ufficio le sta facendo la corte. O un bimbo che non dice alla mamma di aver mangiato doppia porzione di budino. Uno che non confessa all'amico di essere uscito con la sua ex. Ci sono mille esempi di piccoli fatti o emozioni che scegliamo di tenerci per noi, anche se dirli non farebbe molta differenza. Anche se si tratta di innocui comportamenti, di parti di vita minuscole. E non sono sicuro di sapere perché facciamo così, ma forse è per avere qualcosa che rimanga semplicemente nostro. Oggi, con Facebook e tutti i social network, ci sembra un valore dire a tutti cosa si fa. Però forse è meglio tenersi qualcosa per sé, anche piccolo a volte. Non voglio dire che sia giusto o sbagliato, e nemmeno voglio dire che sarebbe bene tenersi tutto dentro, questo no. Quello che credo è che ci sono cose che diventano preziose quando sono nascoste, semplicemente. E secondo me lo sono di più quelle senza valore, cioè senza un peso apparente. Come quei piccoli segreti che ognuno di noi ha e che non confessa a nessuno perché non vuole disturbare. Il nostro mondo intimo diventa più caldo se lo riempiamo di piccole cose che conosciamo solo noi. E quello si trasforma un po' nello spazio dove ci rifugiamo quando siamo in difficoltà. Mi ricordo una volta ho nascosto una scatoletta sottoterra. Era vicino a casa. Avrà avuto 7-8 anni. Nella scatola avevo messo delle figurine. Avevo messo delle figurine, dei tappi di bottiglie di Coca-Cola, mi pare. Poi una lettera scritta da me agli alieni e una copia del mio giornalino preferito. Da quel momento, però, proprio perché si trattava di oggetti che solo io sapevo dove si nascondessero e che quindi solo io potevo recuperare, quella scatola è diventata una delle cose più preziose che avessi. Col passare del tempo mi sono sempre più allontanato da quell'emozione, cioè da quella sensazione lì, finché un giorno mi sono definitivamente dimenticato di dove l'avessi sepolta. Ma non importa. Per qualche anno era rimasta il mio segreto, più segreto e tutto mio. Ecco, allora oggi io voglio fare un po' come ha fatto David. E non dirvene solo uno, come ha fatto lui, quello del vino, di aver bevuto vino a 4 anni. Voglio dirvene di più, voglio dirvene quasi 20 di piccoli segreti senza valore. Cose di quando ero bambino o cose dell'altro ieri. Voglio proprio vedere che effetto fa. E quindi, cominciamo. Ero piccolo e sono stato io a mettere la marmellata nel quaderno di Fabrizio, il mio compagno di scuola delle medie, il giorno in cui bisognava consegnargli alla maestra dopo le vacanze di Natale. Una volta ho fatto un tiro di una canna. Ho fatto inversione a U al casello, anche se a mia discolpa posso dire che il traffico era bloccato e dall'altra parte non veniva proprio nessuno e si vedeva benissimo. Per risparmiare, una volta sono andato a farmi tagliare i capelli dai cinesi in via Paolo Sarpi. Un'altra volta invece ho sperato che una mia professoressa al liceo morisse. Mi sono sentito subito in colpa per quel pensiero. Lei comunque adesso sta benissimo. Ho tifato contro l'Inter, una partita, perché se avessimo perso quella partita lì, il Milan si sarebbe avvicinato alla Serie B. Una volta ho scaricato un film da internet, ma solo perché era così vecchio che da Blockbuster non lo trovavo. E comunque non ce l'ho fatta. Quando avevo 6 o 7 anni e andavo in chiesa e mia mamma mi dava la monetina per accendere la candelina, io la candelina la accendevo, ma la monetina me la tenevo in tasca. Di solito ci compravo delle caramelle. Ho baciato di nascosto la più bella del liceo. Lei voleva farlo per far ingelosire il suo ragazzo. Poi invece non gliel'ha detto e mi ha pregato di non dirlo a nessuno, nemmeno io. E così ho fatto, fino ad oggi. Ho scommesso alla SNAI su una partita di calcio. Non l'ho mai detto perché un pochettino mi imbarazzava, mi sembrava una roba pericolosa, sapete, tipo il videopoker. Ecco, non ho detto a mia sorella che alla fine sono andato a vedere un musical, dopo che lei mi aveva chiesto di andarci e le avevo detto di no. A me i musical non piacciono, per questo le avevo detto di no. Poi però una ragazza con cui volevo uscire mi ha regalato i biglietti. Comunque il musical faceva schifo. Non ho riparato io il parabrezza della Vespa, l'ho fatto fare a un meccanico, anche se è una cosa facile che sanno fare tutti. Una volta ho lasciato morire una piantina perché me la sono dimenticata sul davanzale per tutta l'estate. Poi ovviamente sbircio sempre le cartoline dei vicini. E quando vado in moto, lo ammetto, mi sento un po' più figo. Ok, io la smetto qui, perché qualcosa di mio me lo devo tenere. Però per ora posso dire che è stato bello. Ora c'è spazio per quelli nuovi. We'll be right back. ricevuto la posta di una persona che scambiava foto di nudo perché sbagliavano in posta la mia casella postale aperta con la sua. Sono stato io a chiamare per anni al telefono il signor Vinassa e a cantargli Vinassa, Vinassa. Quella degli scherzi telefonici sono le migliori. Vinassa, Vinassa e i fiaschi di vin. Gualtiero, sono stato io a dare fuoco al camping Sangro a Torino di Sangro nell'estate dell'86. Ragazzi, ho detto piccoli segreti. Cioè qua mi sa che forse noi dobbiamo chiamare i pompieri per questo. O la polizia. Ero io nel 72 a far girare Caballero al seminario di Pavia. Antonio, cosa vuol dire far girare Caballero? Caballero tra virgolette, forse il Caballero, non motorino? No, non è possibile. No, Caballero era una canzone. Vabbè, facci capire cos'era. Questa la sa solo il signore che mi ha già punito. Ho tradito mia moglie in viaggio di nozze con la massaggiatrice della spa. Poi il matrimonio è saltato e ho riconosciuto di non amarla più. Ema, vorrei capire come t'ha tradito. Come t'ha punito il signore. Ero io, infatti, a parte che scusate, torniamo da piccoli segreti, ragazzi, vi prego, non scaricatemi addosso questo peso per tutto il fine settimana. Ero io a svuotare a colpi di cannuccia il brandy di papà e ci mettevo acqua. Papà si è accorto nella grande occasione, ma la colpa se l'è presa mio fratello. Ne ho una serie, ho tradito il mio ex 2004, lui non lo sa. Papà con l'ammaccatura all'auto l'ho fatta io, Simone da Padova. Mi sono masturbato pensando a mia zia, era ed è ancora troppo buona. Giuseppe, grazie Giuseppe. Andiamo direttamente da David, perché lui ci ha raccontato un piccolo segreto e qui si è aperta una cataratta. Pronto David? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, dove ti trovi adesso? A Foligno? Sì, sono allo studio che in realtà sta a Trevi, vicino a Foligno. Comunque. Certo, ma tu lo sai che Tiziano Bonini Sì, lo so. È di Foligno, ma vi conoscete? No, ho visto anche la foto, ma non sappiamo. È giovane. È troppo giovane. Poi Foligno è grande. Quanti abitanti ha Foligno? No, non è grande, però diciamo 60.000. Senti, tu fai il geologo, dicevi, Davide? Sì. Quindi che tipo di ricerche fai per di solito cercare il petrolio, la prima roba che mi viene in mente? No, beh, per ora no, semmai l'acqua, diciamo, più la cosa più limitata. Più nobile, poi, no? No, beh, per, diciamo, libera professione, quindi mi chiamano le ditte o i privati per fare edilizia, diciamo, principalmente edilizia, oppure lavori su materiali, così, insomma. Ecco. Senti, c'è ancora il nonno? No, non c'è più. Molti anni fa, sì. Senti, che ricordo hai di lui? Era grande, che comunque io ero molto piccolo, quindi era comunque una persona buona, brava, insomma. Da quanto tempo non c'è più, scusami, da tanti anni? Da 84 mi sembra, una cosa del genere. Senti, tu lo fai il vino? No, non ho neanche il terreno, non ho niente. Ah, giusto, è vero, perché in Umbria un po' tutti hanno ma in Umbria sono anche tutti cacciatori più o meno. Cioè, tranne sì. Bonini, giusto per frequentare dei luoghi comuni. No, io diciamo la caccia non mi piace. No. Comunque conosco dei cacciatori, sì. Senti, invece nel racconto dici che in quella casa, no, nella casa del nonno, oltre ad avere dato il primo sorso di vino e avercelo raccontato, e grazie per averlo fatto solo ed esclusivamente a noi e praticamente ormai... Certo, sì, esclusivamente per voi. Sì. In pochissimi lo sanno. Ci hai fatto anche l'amore per la prima volta in quella casa? Sì, perché dopo che il nonno era morto, diciamo, la casa era rimasta libera perché mia nonna era abitata con la zia e poi, diciamo, quindi c'era stata l'occasione, ecco, diciamo, io l'ho utilizzata. Ecco. Ma cioè non era uno scannatoio ufficiale, era semplicemente un posto in cui... No, quella penso sia stata una delle uniche volte che sarà utilizzata in questo modo, diciamo, il clandestino. Senti, ma ti ricordi ovviamente chi era? Sì, non si può dire, però non è tua moglie? Sì. No, una ragazza che mi piaceva all'epoca, diciamo, sì. Ok, senti Davide, io ti ringrazio moltissimo anche perché riconosco, diciamo, nel pieno stile umbro un po' di imbarazzo e di timidezza nelle tue parole e quindi direi che per te era parlato il segreto che ci hai confessato. Dimmi solo, perché mi incuriosisce sempre molto la vita del geologo, che tipo di ricerca stai facendo adesso, in questi giorni? In questi giorni? Niente, ho a che fare con dei terreni da analizzare. Facciamo un laboratorio, diciamo. Ma per cosa? Per cercare cosa? Sempre per edilizia, quindi sono le ditte che fanno i sondaggi e ci mandano i campioni per analizzare, diciamo, per le caratteristiche fisiche dei materiali. Okay. Ecco. Ok, ma c'è una campana? Sì, sono le 4:30. Sono le 4:30, in realtà sono ancora le 4:28, però grazie comunque. Davide, è in anticipo, come l'orologio a cucù di ieri del bresciano banchiere. Grazie ancora, Davide, buona giornata. Grazie a te, ciao. siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Ci ha mandato due fotografie, David. Adesso non ricordo più qual è sul sito, però ve le racconto tutte e due, che sono divertenti. La prima, credo sia un autoscatto, è in casa con la propria famiglia, con sua moglie e le sue bambine, che hanno, non mi ricordo più quanti anni, ma sono abbastanza piccole. Lui è su un bel maglione color salmone, di quelli che di solito ti regalano a Natale e dici, grazie! Proprio di questo colore, proprio non ce l'avevo, mi mancava. La seconda invece è strettamente legata al racconto ed è bellissima, è una foto, sembra una foto d'epoca, lo è di fatto, perché è lui piccolo piccolo su un seggiolone davanti a una tavola, probabilmente per un compleanno, alla sua destra e alla sua sinistra i nonni. Il nonno tiene in mano una bottiglia di vino e lui invece sta bevendo da un bicchiere del vino rosso. Ho spiato la professoressa in bagno, Francesco da Padova. Avevo circa 10 anni e ho rubato a una mia amica alcuni francobolli. Sono passati 34 anni, mi vengono ancora dei sensi di colpa. Vi prego, vi prego. Piccoli segreti, non roba tipo sì, sono io che ho ucciso quel tizio, no. E intanto grazie a tutti quelli che nell'ordine di 50 messaggi mi hanno scritto che Caballero era un giornalino porno, riferito al tizio che diceva ho fatto io girare Caballero in seminario a Pavia, non so più quando. 349-238-6666. Ma dopo un po' di tempo mi fa anche piacere sentire le persone che al telefono hanno voglia di raccontarmi i loro segreti. Andiamo in ordine, cominciamo da Paolo, dalla provincia di Perugia. Pronto Paolo? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, tu? Rimaniamo in Umbria. Sei in macchina? Sì, sono in macchina, però c'ho l'auricolare, te lo giuro. Figurati, guarda, non è tanto a me, ma è per te e per gli altri che ti sono lì vicino, nelle vicinanze. Cosa fai di lavoro, Paolo? Sono consulente, lavoro per aziende, varie aziende. E raccontami, liberati da questo segreto. Perdonami Matteo, ho rotto i vetri della scuola il giorno prima del primo giorno di scuola del 1983, eravamo in quattro disgraziati che il giorno prima andavano in giro la sera e abbiamo cacciato due o tre sassate, niente di che. Ma scusami, i vetri della scuola di che anno? Cos'era? Era la scuola superiore, era il 1983 credo. La notte del primo del giorno di del scuola. Giorno prima. Paolo, grazie, esatto. Grazie mille, spero ti perdonami, tu sia. Matteo. Figurati, io guarda, chiedilo al preside. Ciao, grazie Paolo. Andiamo a Parma da Fabrizio. Pronto Fabrizio? Sì, ciao. Come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Quanti anni hai Fabrizio? 44. E sembra che ce ne hai 12 però. Grazie. Che lavoro fa? Figurati, che lavoro fai? Io mi occupo di sicurezza nei luoghi di lavoro, sono un consulente aziendale. Senti, raccontami qual è il tuo segreto. Niente, io una quindicina di anni fa, mio padre, marinaio, ha girato il mondo come incrociatore. Io sì, non ho fatto neanche il servizio militare, ecco, lui ha cercato di girarmi questa eredità morale regalandomi il suo orologio d'ordinanza che lui ha portato per una vita in giro per il mondo. Pulp Fiction praticamente. Esatto. E tu cosa l'hai fatto? Era un'estate e lui me l'ha regalato al mattino. Il giorno dopo io vado in piscina a Parma e mentre nuoto vedo che le lancette galleggiavano dentro il quadrante. Ma non era un orologio della Marina, scusami? Esatto. Beh. Era un orologio della Marina, si vede che... Che non era subacqueo banalmente. Si vede che era destino, non poteva essere al polso di un non militare come me. Fabrizio, ti ringrazio moltissimo e buona crescita per i tuoi 12 anni. Grazie, ciao, stai bene, grazie. Saluto. Andiamo a Claudio, provincia di Cuneo. Pronto Claudio? Ciao Matteo, ciao. Ciao, stai bene? Sì, sto bene. Tu quanti anni hai? Io ne ho 37. Benissimo, però dalla voce ne dimostri invece 52, quindi diciamo sì, fai pari con quello di prima. Vado a pari con quello di prima. Sì, senti, tu devi confessare una cosa al prete del tuo paese. Io al prete del mio paese, sì, eravamo un gruppo di amici, io ti parlo degli anni 90, sì. E facevamo un po' delle goliardate, abitavo vicino alla chiesa, al mattino la chiesa suonava per chiamare la gente a messa. Io una sera dopo cena con i miei gruppi, con i miei amici, vi tiro la battuta, andiamo a smontare le campane. I miei amici prenderò la palla al balzo e partiamo salendo sui tetti, saltando le vie, perché non eravamo proprio attaccati, c'era una via tra la chiesa. Siamo stati sul campanile di notte e abbiamo smontato i battacchi. Il battacchio interno? Il battacchio interno. Ma come è tenuto fisso, scusa, il battacchio? Era fissato, adesso penso che è fissato, con una pelle, una specie di cinghia di pelle, di vitello, e noi l'abbiamo semplicemente slegati. L'abbiamo slegati, poi... campanile c'ha quei buchi all'interno dei mattoni vuoti, noi li abbiamo nascosti lì e abbiamo messo i mattoni davanti. Senti, ma fu una sorta di caso all'epoca oppure non se ne accorse nessuno? No, fu una sorta di caso, arrivò la polizia, i carabinieri, il parroco immaginava che ero io, però non... Come immaginava? Che il famoso che svita i battacchi dalle campane. Claudio, grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie, andiamo a Genova da Marco. Pronto, Marco? Pronto? Marco? Sono io? Sì, non sono di Genova, però. Di Mondragone. Ah, sei di Mondragone? Che si trova dove, scusami, Marco? Provincia di Caserta. Provincia di Caserta. Tutto bene, Marco? Sì, abbastanza. Come abbastanza? C'è bisogno di parlarne? No, figurati. A posto. Dimmi cosa hai fatto. Niente, praticamente quando avevo 8-9 anni chiamavo gli 144-005 che erano... appena nati, diciamo. Marco, ti giuro, sei la prima persona che lo ammette. Ah, ecco. E io ti ringrazio per questo. Ma abbiamo trovato uno che chiamava gli 144. Oh, finalmente. E quanto ci stavi? No, ma non è il fatto che ci stavo tantissimo, il fatto che chiamavo, si tira già indietro. Per 2 o 3 mesi ho chiamato spesso e arrivava una bolletta di 2 milioni circa. E i tuoi cosa hanno detto? No, niente, mi ricordo ancora il giorno in cui arrivò la bolletta che mia mamma andò a prenderla. La lesse disse: ah, 220.000 lire, un po' troppo, però ci sta. Poi andò a contargli zero e vide 2.200.000 lire. Ma senti, ma tu chiamavi quelli in cui dovevi interagire o in cui ascoltavi e basta? No, non che io lo sapessi, cioè semplicemente me l'hanno raccontato. No, me chiamavo un po' sia linee erotiche, diciamo, ma anche linee, cioè poi c'era un po' di tutto, quelli, le linee che davano aiuti per le scommesse, le schedine, Marco, per cioè un pazzo. Poi... Cosa fai nella vita, Marco? Studio scienze della Unione. Ti ha salvato internet a te, eh? No, perché altrimenti eravamo qua a pagare bollette fino a domani. No, ma fortunatamente no, non la pagammo, perché poi fece un ricorso, perché non ammise naturalmente la colpa. Facemmo ricorso e la vincemmo anche, quindi non pagammo. Marco, grazie mille, buona giornata. Ok, ciao. Ciao, grazie. L'ultima telefonata di oggi, Fiorella. Pronto, Fiorella? Sì, pronto, ciao. Ciao, senti, prima io ho letto il tuo messaggio perché era straordinario, che tu svuotavi a colpi di cannuccia al brandy di tuo padre. Quanti anni avevi? Non solo io e sia mio fratello, perché eravamo una coppia terribile. Io avevo circa 12 anni e mio fratello ne aveva 8. Mio padre mitizzava sempre questa bottiglia di brandy, che noi non avevamo nessuna idea di che cosa fosse. La mitizzava con amici, con parenti, e alla fine pomeriggio, quando mio papà e mia mamma non c'erano, noi avevamo svitato il tappo di questa bottiglia e piano piano, giorno per giorno, ce la siamo bevuta praticamente. Fiorella, grazie mille per esserti anche tu liberata di questo peso e buona giornata. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Sono le 16.43, è venerdì 2 dicembre, siamo tutti un pochettino più leggeri. Ringrazio Tiziano Bonini, ringrazio Margherita Ina e Paolino Corleoni. E ringrazio soprattutto Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di David e parlava di confessioni. Quella di lunedì è la storia di Alessandro e parla di vincere al totocalcio. Alla fine delle partite andai da mia mamma. Lei stava lavorando in cucina. Le dissi: mamma, secondo me ho fatto 13. Lei aveva già alle spalle circa 25 stagioni di schedine accartocciate nel pattume e non reagì più di tanto alla mia affermazione. Io però non potevo aspettare e andai a svegliare il detentore della schedina, mio padre. Dopo qualche minuto di sbuffi e rantoli, il babbo aprì gli occhi in maniera definitiva, sonnellino pomeridiano interrotto in maniera traumatica. Tornai in soggiorno e mi misi ad aspettarlo, seduto sulla sedia vicino alla sua. Lo vidi apparire nella classica tenuta da domenica pomeriggio autunnale, pesante tuta turchese e calzini di lana grossa.